La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 6 marzo 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Questa puntata è una puntata del tutto speciale. Ci occuperemo della Scienza in Piazza, una manifestazione per divulgare e diffondere la scienza proprio qui a Bologna. E abbiamo al telefono la dottoressa Giorgia Bellentani, coordinatrice della Fondazione Goninelli per conto della Scienza in Piazza. Buongiorno Giorgia. Buongiorno e buongiorno agli spettatori. In 100 parole, all'inizio della trasmissione, descrivimi che cos'è la Scienza in Piazza per una persona che non l'abbia mai visitata nel passato. Allora, come hai detto tu, è una manifestazione di divulgazione della scienza. L'obiettivo fondamentalmente è quello di trasformare per 10 giorni o anche più tempo una città, un centro storico, ma anche un centro culturale, un quartiere, in un science center, portare, concentrare nei luoghi che normalmente sono i luoghi di vita dei cittadini, ma anche i luoghi della cultura, e mostre, laboratori, exhibit, momenti di confronto, opportunità di dialogo con alcuni ricercatori, appunto portare vicino ai cittadini le tematiche scientifiche, ma anche avvicinare allo stesso tempo chi si occupa di scienza a quelle che sono le idee, le visioni di un pubblico che magari normalmente non si occupa di scienza, ma che poi sulla scienza deve decidere spesso, no? Se pensiamo anche alla legge sulla fecondazione assistita, insomma, la scienza permea ormai tutta la società, per cui ci riguarda. Perfetto Giorgio, adesso andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio, poi cominceremo a parlare della Scienza in Piazza. Dico un pochino come andrà la trasmissione. Nella prima parte parleremo un pochino della storia di questa manifestazione che ormai è storica per Bologna, e poi nella seconda parte invece ci occuperemo espressamente del programma di quest'anno. Musica, poi torniamo in studio e poi di nuovo a parlare di Scienza in Piazza. Molto bene. Inside the lover. Giorgia, ben tornati in studio, quindi do il bentornato anche ai nostri ascoltatori che stanno in collegamento con Radio Città Fucico e con lo streaming di cacciafotone.it, e andiamo a parlare un pochino della storia di questa manifestazione della scienza in piazza che ormai si presenta nel bolognese e poi dall'anno scorso si presenta proprio a Bologna. Giorgia, tu c'eri fin dal 2004 quando è cominciata questa manifestazione. Cerca di descrivermi un pochino questa storia, quindi come è nata e chi l'ha voluta questa manifestazione. Ebbene sì, c'ero, è nata come una sfida, ma allo stesso tempo come un sogno, grazie alla visione del presidente della Fondazione Marino Golinelli, che si chiama appunto Marino Golinelli, che era mossa dal desiderio, come dicevo prima, di realizzare nel nostro territorio un Science Center internazionale di tipo moderno. Non avendo uno spazio, è sorta un po' questa idea di provare a trasformare un luogo in un science center per un tempo determinato. Così abbiamo fin da subito ottenuto una risposta entusiasta da parte del comune di Casalecchio, anche perché poi l'obiettivo generale era quello di fare diffusione della cultura scientifica, parlare di scienza, parlarne in modo anche leggero, curioso, un po' anche, come dire, svecchiando, no, la po' che ricorda la scuola, oppure anche il grande luminare della scienza che tanto si vede così distante rispetto al quale si ha poi magari timore, no? Quindi farlo in un modo molto anche giocoso, divertente, però serio. All'inizio della trasmissione abbiamo parlato proprio del 2004, che era l'anno in cui nacque una cosa particolare che vorrei che tu ricordassi, si chiamava Tica e Bio, me la vorresti descrivere? Ah, sì, è ancora in parte un portale dedicato alle scienze della vita per i più piccoli e per i genitori oppure anche gli insegnanti che convivono con i ragazzi, con anche i ragazzini, perché era, insomma, si rivolgeva ad un pubblico che andava dai 5 anni ai 3, e aveva dei giochi, delle parti di approfondimento, delle proposte anche di laboratorio che si potevano fare a casa, sulla genetica, in parte le biotecnologie, così. L'idea che l'aveva ispirato era che dai ragazzi si potesse così far parlare e affrontare tematiche anche importanti come gli OGM, i test genetici, anche agli adulti. Quindi si volevano raggiungere gli adulti, però attraverso i ragazzi prima di tutto, ed aveva avuto molto successo. Infatti poi da lì, nato come portale, attorno già nell'anno precedente avevamo iniziato a fare delle attività così tipo festivaliero, no? Andavamo in giro nei comuni, o addirittura andammo al Future Show che si teneva allora però a Milano, e a fare un'attività un po' così giocosa sul DNA, e da lì poi capimmo che si poteva fare divulgazione scientifica in un modo diverso e ci buttammo in questa avventura che poi è diventata la scienza in piazza. E poi parliamo del primo anno del Comune di Casalecchio, ti ho interrotta, in cui proprio il Comune di Casalecchio ospitò la prima edizione della Scienza in Piazza, un'edizione, ricordo io, molto, molto piccola se pensiamo a quello che è diventata oggi la Scienza in Piazza. Ma tu che cosa ricordi di quella prima edizione della Scienza in Piazza nel 2005 appunto? Allora, ricordo molta agitazione iniziale, perché nessuno sapeva che cosa sarebbe stato, davvero, per tutti noi che lavoravamo. Ricordo molta così poi genuinità e tanta voglia di fare da parte di tutti, così lo stupore negli occhi del pubblico, dei partecipanti, che poi ho rivisto le rivedo sempre tutte le volte che facciamo questa attività, però allora, diciamo così, era un po' nuovo. E ricordo anche tanti errori, devo dire, che però poi sempre vissuti in un modo molto così, molto poi ironico, e con l'idea che tutto faceva brodo, come si dice, poteva insegnarci a fare qualcosa di meglio. E anzi, prima ci pensavo, prima di ricevere così, di essere invitata da te, che tutte quelle esperienze così importanti anche poi, insomma, ci hanno permesso di fare di gettare una manifestazione così anche complessa in un certo senso e anche di impatto, come è stata la Scienza in Piazza dell'anno scorso e la Scienza in Piazza di quest'anno, e allo stesso tempo di far crescere tante anche professionalità, perché poi tu lo sai bene, tu c'eri nel 2004, c'erano anche tante altre persone, animatori o studenti, no? O anche dei gruppi di ricerca che così erano un po' incuriositi, e poi insieme abbiamo imparato a fare divulgazione scientifica, e così, e anche alcuni centri di ricerca sono diventati, gruppi di ricerca sono diventati molto bravi a farlo. Per cui, insomma, ci siamo fatti le ossa a partire da Casalecchio, e poi successivamente San Lazzaro, San Giovanni negli anni successivi. E quindi poi chi c'è stato, penso che c'è stato come utente, come partecipante, insomma, penso che ne abbia goduto anche della crescita progettuale nostra, e che sia anche cresciuto con noi. Ad esempio, ricordo a Casalecchio una famiglia che venne il primo anno, che ricordo perché ha un nome particolare che non dico ed è tornato tutti gli anni, e quindi sono tutti gli anni ci rincontriamo, e la famiglia di quattro persone ci segue durante le Scienze in Piazza. Non ti piace mica la Scienza in Piazza, vero Giorgia? Non si sente, non si capisce. Ma sai, adesso poi oggi siamo già da un paio di giorni in allestimento a Palazzo Renzo, per cui questo è un bellissimo periodo, un bellissimo momento, perché si vede tutto che cresce, no? Si parte dall'idea, sono manifestazioni queste come altri momenti così, eventi o festival, altri festival, anche Festival della Scienza eccetera, ma non solo, che hanno tanti mesi di preparazione. Allora uno se li immagina, li cambia le collocazioni di ogni singolo laboratorio, mostra, così, e poi un po' alla volta, quando si inizia ad allestire, si vedono i muri che crescono, le stanze che prendono colore, arrivano a poco i contenuti, che sono poi quelli più importanti, e quindi, insomma, è molto bello. Senti Giorgia, tu all'inizio parlavi del fatto che all'inizio la Scienza in Piazza era una manifestazione che si teneva nella provincia di Bologna, poi l'anno scorso c'è stato il salto di qualità, quindi questa manifestazione è approdata direttamente a Bologna. Quali sono le difficoltà nell'organizzare una manifestazione, che ne so, ad Anzola dell'Emilia o a San Lazzaro di Savena, piuttosto che organizzarla nel centro di Bologna? Perché l'anno scorso è stata una manifestazione totalmente diversa rispetto alle manifestazioni che anche noi animatori, ebbene sì, faccio outing, come sì, hai detto prima, sono un animatore della Scienza in Piazza, abbiamo dovuto affrontare. Allora, intanto una cosa che volevo dire prima, che poi mi sono persa, non sono riuscita a dirla, era che si può fare cultura ovunque, che per fare cultura scientifica non c'è né un centro né una periferia, ma ogni luogo è opportuno e indicato, e quindi diciamo che l'approccio non cambia molto, perché poi l'idea è appunto quella un po' del format che sia replicabile. Però è chiaro che in un poi ogni comune, no, ha le sue esigenze, però sai, anche come quantità la Scienza in Piazza, almeno per come è stata l'anno scorso a Bologna, è diversa rispetto accesso alla scienza in piazza nei comuni più piccoli, nei comuni della provincia. Devo anche dire che l'anno scorso è stata così imponente rispetto agli anni precedenti, perché era il ventennale della nostra fondazione, tant'è che l'edizione quarta si è svolta su due anni, il 2008 che contemporaneamente ha invaso in certo senso provincia di Bologna e poi nel marzo 2009 invece è approdata a Bologna. Ecco, per dire che magari in ogni singolo comune c'erano contemporaneamente una decina di attività tra mostre, allestite, laboratori, però se si pensa lo si moltiplica per nove, si capisce che magari poi l'impegno anche organizzativo e le scelte anche contenutistiche non è che poi siano tanto diverse da realizzarlo in modo concentrato per 11 giorni in un'unica città. Certo è che quando siamo arrivati a Bologna, soprattutto avendo fatto la scelta di portare la scienza in piazza in pieno centro, in particolare attorno a Palazzo Renzo e dentro a Palazzo Renzo, volevamo fare una manifestazione che desse effettivamente, perché per la prima volta ne avevamo l'opportunità, che desse l'idea al pubblico del Science Center. E una location come quella di Palazzo Renzo si prestava, era effettivamente un Science Center, tu entravi e come poi sarà anche quest'anno, avevi l'idea di essere in uno spazio che poteva essere la Villette di Parigi, adesso giusto per così, per magari non così perché la Villette è immensa, però non aveva a mio parere nulla da così da scontare, no? Rispetto, non so cosa ne pensi anche tu, però rispetto ad un bellissimo museo o science center italiano come ad esempio la Città della Scienza di Napoli. E quindi abbiamo fatto secondo me un lavoro che ripeteremo quest'anno, ogni anno c'è sempre una novità o più di una, sulla cura degli allestimenti. Giorgia, prima di lasciarci per ascoltare un pochino di musica, la domanda clou: verrà mai fatto un Science Center fisso qui a Bologna, a parte la Scienza in Piazza che è un Science Center itinerante? Magari, speriamo, ci sono tanti così, tante idee, progetti, alcuni insomma che iniziano a camminare e iniziano a crescere. Abbiamo noi come fondazione, chiaramente in collaborazione con le istituzioni, l'idea, cioè questo progetto, abbiamo già fatto uno studio di fattibilità per realizzare un Art Science Center, quello che è adesso la zona di Villa Volpe, quindi al confine tra il comune di Casalecchio e Sasso Marconi. E quindi insomma vedremo, ma chiaramente sono dei progetti molto grandi che hanno bisogno anche di tempo e così che il contesto diventi maturo per farlo. Nel frattempo noi, come dire, ci alleniamo. E sull'allenamento ci lasciamo per un po', andiamo a ascoltare un pochino di musica, poi torniamo in studio e parleremo espressamente del contenuto di questa Scienza in Piazza, quindi della Scienza in Piazza Annus Domini 2010. It's nearly a week and I've not been asleep and I've not got a reason to know. 'Cause now that I've joined up the dots I can see what you are. Sun, sea and grains of beautiful sugar, that's what you are. The moon and the stars, Venus and the others. Racing me up as you walk up a path, dressed like a rag doll, making me laugh. It's coming together, it's just getting better. The heavens are open to you, my love. You're looking smug as your flag unfurls. It says that you're the only Giorgia, siamo ritornati in studio a Cacciafotone e a Radio Città Fujiko e cominciamo a parlare dell'annata 2010 della Scienza in Piazza. Ora, che cosa ci sarà di nuovo e che cosa verrà riproposto di vecchio all'interno di questa Scienza in Piazza rispetto agli anni precedenti? Inizio con il nuovo. E partendo dal titolo, il titolo o sottotitolo della Scienza in Piazza è l'arte di vedere, il piacere di capire, perché abbiamo voluto portare, diciamo così, promuovere ulteriormente una ricerca sul rapporto tra arte e scienza, che in parte permea, diciamo così, forse anche il DNA della nostra fondazione, però l'intento era quello di iniziare ad unire il più possibile l'arte e la scienza, dal nostro punto di vista, che è sempre quello della divulgazione scientifica, per capire se questa unione porta a qualcosa di più rispetto a così intraprendere un percorso di conoscenza che sia solo artistico o solo scientifica. E tant'è che l'idea di questa edizione sarà un po' un traghettamento verso l'edizione dei prossimi anni, in cui probabilmente la Scienza in Piazza cambierà nome e si trasformerà in Arte e Scienza in Piazza. E tutta questa premessa per dire che ci saranno delle proposte molto così un po' all'avanguardia, posso dire, sul rapporto tra arte e scienza. Come direbbe un bravo giornalista, ci stai dando uno scoop, Giorgia. Uno scoop. Beh, ormai la conferenza stampa è stata fatta di presentazione e ormai si sa. E poi devo dire che, come dire, noi poi già da un po' di anni lavoriamo su queste, così ci piace unire ambiti diversi, e lo dico sempre in un modo molto di ricerca sperimentale, quindi con un metodo che è quello scientifico e con appunto un punto di vista che è quello della scienza soprattutto, quindi la priorità in tutto questo continua ad averla la ricerca scientifica. Non ci vogliamo sostituire ad un museo d'arte contemporanea, insomma noi qui ne abbiamo il Mambo che inizia a fare un lavoro pregevole, questo lo vorremmo fare. Ecco, a noi interessa scoprire se integrando così anche intelligenze diverse si aprano nuove prospettive di conoscenza, quindi vediamo. Vediamo se funziona. E appunto dicevo, il centro di questa Scienza in Piazza sarà la mostra Antroposfera, che verrà presentata in anteprima alla Scienza in Piazza e che poi successivamente, finita la Scienza in Piazza, si trasferirà in Pinacoteca, la nostra Pinacoteca nazionale in Via delle Belle Arti, vedrete che i temi su cui le aree tematiche si incentrano sono un po' legati all'impatto dell'uomo sul mondo vivente. E non a caso il sottotitolo di Antroposfera è Le nuove forme della vita. Avremmo voluto aprire la mostra, diciamo così, con un'opera di Eduardo Kach, che è un artista che lavora con dei genetisti, e avremmo voluto aprire con la sua Petunia, che ha vinto un premio come opera d'artista, che contiene un gene d'artista che si esprime nelle venature rosse dei petali. E di fatto la Petunia transgenica non c'è, sarà l'unica opera che non sarà in originale, ma sarà una riproduzione. E perché? E questo si sposa molto bene, rimane comunque una bella introduzione per la mostra, perché è genetica, non autorizza l'importazione dagli Stati Uniti, dove è stata prodotta, in Europa. E non lo fa perché la petunia potrebbe riprodursi e quindi lasciare in Europa piante OGM. Giorgia, senti, tu sai benissimo quanto mi piaccia l'arte, però mi piace anche un po' lo stomaco, quindi non solo gli occhi ma anche lo stomaco. E quest'anno nella Scienza in Piazza, peraltro non la prima volta, si parlerà di cucina molecolare. Insieme a chi si parlerà di cucina molecolare e soprattutto che cos'è la cucina molecolare, perché potrebbe non essere chiaro ai nostri radioascoltatori. Sì, parleremo con un docente di fisica della materia all'Università di Parma, ed è un grande appassionato di cucina e insieme ad un altro collega è diventato un suo amico cuoco, in realtà un esperto di appunto questo nuovo modo di cucinare utilizzando sostanzialmente le proprietà chimico-fisiche dei cibi e la variazione soprattutto di temperatura, per cui utilizzano molto l'azoto liquido per portare a bassissime temperature, congelare velocemente alcuni cibi, tutto questo realizzando degli alimenti che sono commestibili, cioè nel senso non viene aggiunto nulla nei cibi che sia nocivo per chi le mangia. Diciamo che tutto sta attorno, no? L'utilizzo del, poi insomma, in fondo poi cucinare in parte è fare esperimenti di chimica. E quindi insomma questo è quanto. L'incontro è molto, sarà un incontro con lui molto molto vicino allo spettacolo. Lui cucinerà in diretta, racconterà quello che sta facendo e lo farà in un modo che, come è in grado di fare lui, si vedono anche su YouTube alcuni filmati, in un modo molto spassoso e divertente. E quindi poi si parla tra l'altro anche molto di cucina molecolare, si può autorizzare, non si può autorizzare, è giusto, non è giusto, perché è per la sicurezza alimentare eccetera. E alla Scienza in Piazza quest'anno ci sarà una sezione dedicata alla nutrizione e all'alimentazione. E possiamo dire che qualche laboratorio in questo momento anche a casa di Giorgia Bellentane si sta svolgendo, perché in realtà tu stai cucinando mentre stai facendo questa intervista a Caccia Fotone e stai preparando un risotto, almeno si narra così, vero? Si narra, lo preparerò per pranzo. Giorgia, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, se volessi ricordare uno dei laboratori diciamo a contorno di questi laboratori principali che fanno parte della Scienza in Piazza, mm-hmm. quale consiglieresti a un non lo so, un visitatore che non ha mai visitato questa manifestazione? Sì, io ho il mio preferito. Devo dire che noi abbiamo lavorato tanto sulla genetica, le biotecnologie, e il pubblico della Scienza in Piazza troverà nuovamente il nostro spazio biotech con attività nuove. Però il mio preferito quest'anno è un laboratorio dal titolo Se Corpo Mente. È un laboratorio che abbiamo progettato insieme ai ricercatori di psicologia, scienze neurocognitive dell'Università di Bologna. Non è un laboratorio che riproduce e quindi fa una metafora di quanto questo avviene nei laboratori di ricerca, ma è effettivamente un laboratorio di ricerca, quindi chi parteciperà su prenotazione diventerà oggetto di osservazione, quindi farà i test neurocognitivi, i test sul corpo, come se fosse appunto un soggetto per la raccolta dati sulla percezione del sé e la rappresentazione del corpo. E, insomma, questo io penso sia davvero un'attività e un approccio nuovo che poi è esemplificativo di quello che è per noi fare ricerca scientifica, quindi fare vivere in prima persona la conoscenza, il fare conoscenza scientifica a tutti. Insomma, devo dire che sì, questo è il mio preferito. Insomma, molte cose da vedere, molte cose da sperimentare, e nella modalità, come dicono quelli che sanno parlare di scienza, hands on, quindi hands toccare. On. Ma sì, ci sono tante cose, laboratori, arte e scienza, uno spazio su sempre sull'ambiente con diverse mostre, fisica, tutti da toccare, spostare, ci sono, no, e poi se posso ancora dire, ultimissime note. E un'esposizione di robot con un laboratorio di robotica, ci sarà un robot che giocherà a Tris con il pubblico, con un'interfaccia grafica, e poi un laboratorio di nanotecnologie con un microscopio dell'università a scansione atomica, e quindi potremo vedere dei campioni della grandezza di 10 alla meno 9. Una meraviglia, insomma. Vi aspettiamo. Giorgia, io mi permetto di ricordare infine di Caccia Fotone il sito della Scienza in Piazza, che è www.lascienzainpiazza.it. Ricordo che la Scienza in Piazza ha anche il suo spazio su Facebook, quindi potrete iscrivervi e avere tutti gli aggiornamenti proprio sul social network più diffuso, almeno qui in Italia. E poi noi due ci salutiamo e poi ci rivedremo alla Scienza in Piazza. Arrivederci. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fugico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. A presto, Giorgia. Ciao.